Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Eccoci con voi, con un cordialissimo saluto da parte di Gesi e di Antonio. Ecco Antonio, siamo già ormai quasi alla metà di marzo. Molto velocemente, devo dire. Come passa il tempo sì, proprio che non... Decisamente. Mi sembra ieri che era il primo dell'anno e fra poco siamo in primavera. Allora noi approfittiamo per dare un cordiale saluto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto in questa nuova avventura sulle ali dei ricordi. Il nostro indirizzo internet è bluradioveneto.it e ricordiamo anche la possibilità di ascolto in streaming e relativo download della trasmissione, senza dimenticare un cordiale saluto al nostro regista e al nostro coordinatore. Bene, allora Antonio, chi abbiamo stasera? Una cortesissima e amabilissima ospite virtuale, naturalmente, che risponde al nome di Franca Turchetto. Franca Turchetto, che piace tanto ai nostri ascoltatori. Ecco. Beh, cosa facciamo prima? Prima facciamo ascoltare una canzone? Sì, direi di Ecco, visto che si parlerà, non so di che cosa ci parlerà, ma comunque senz'altro delle zone veneziane. Allora, ci ascoltiamo, cantata da Beniamino Gigli, Notte a Venezia. Ah, che bella questa romanza cantata da Beniamino Gigli. E adesso avremo al telefono la nostra amica Franca. Pronto? Buonasera. Pronto, Franca. Buonasera. Ciao a tutti e tre, anche lo studio che fa quattro. Ciao Franca. Ciao. Ah, saluti anche lo studio. Certo. E tutti gli ascoltatori, ma qui vien dopo, qui ad ascoltare. Prima ascoltano e dopo. Buonasera a tutti. Ciao Franca, bentornata. Mi sei giocato in casa stasera. Perché? Perché parlerò anch'io dell'acqua della laguna. Ah sì? Sei un derby stasera. Sei un derby. Laguna contro laguna. Laguna contro laguna. Col te che vedi io. Sei pronti per andare in barca? Tranquillamente. Ecco, scuro. Ecco, questo è più improbabile. Che avevi paura? No, mi fa associare con fulminante. Benissimo. Vabbè, dai. Ma se no, il chiaro della luna, dai. Ma insomma, se scuro, se non mi porto mi. Vabbè, no, va allora. Bene, dai. Allora comincio con questa piccola presentazione. Dunque, il mar palpita nella notte, infinio, magnifico, unico e pauroso. E colpisse col martello del tempo, indifferente a stupidità degli uomini, ma cosciente della sua crudeltà. Ma cosa che c'è sotto? Cosa sconde a profondità? E domanda facile, dove si puse la laguna? Sotto una barca o sotto pochi metri di acqua? Venezia, città che dondola, che parla col respiro, con l'assiar di assoetia, di assoetà, città da isole, tante, desmentegae, sconosciue, isole dai nomi strani, mai sentii, ma che ha fatto storia. Noi altri, in pratica, noi altri, a maggior parte, insomma, conosce le isole della laguna, per quei pochi che si sente magari in televisione, che si conosce per esperienza, e mi parlo di Torcello, che sapevamo. Sì, Torcello. Ecco. Ma... parliamo di Masorbo. No, de... questo non l'ho mai sentito. Se attaccare Masorbo, dopo che sei Buran. Beh, quella sì. Ecco, Muran. Sì. Che sei isola di Acertosa, che sei isola di Vignoe, che sei isola. Che ne sei un sterminio. Chi più e chi ne più, ha più ne metta. No, più o meno conosciute. C'è da calcolare che oltre a Torcello, Ghezera, altre due isole che adesso vi menziono in breve. Una si chiamava Costanziaca e una Amiana. Queste due isole qua praticamente verso la metà del 2005 esistai in giottie dai pieni della laguna e oltre che queste anche le altre, ma queste qua faceva parte del circondario di Altino, ese isole che ese romane, cioè ese esistie fin dal tempo di Romani, tanto è vero che Costanziaca deriva il suo nome da Costanza Flavia Valeria. Era una donna. E era sorella di Costantino il Grande. E la seconda sta Amiana e deriva da Amiano Marcellino, che era storico al servizio dell'imperatore Costanzo. Sì, queste qua proprio non esiste più. Non esistono più? No, proprio. No, sparì, esiste in giottie. Giottie dall'acqua. Dopo che ne sparì le altre, però insomma queste qua io menziono, dopo che sei altri nomi strani che neanche non vi dico, perché neanche se neanche sul vocabolario, perciò non potrei l'inserire. Ascolta, la poesia di prima è tua? Non è una poesia, è una riflessione, adesso invece è una poesia. Mia, cioè, ho scritto mia, ma è poesia, è più poesia, ecco. Sì, ho capito. E è intitolata Silenzio in laguna. Un specchio d'acqua, vero trasparente, dove e isole incantae sega indormensà su una rete dei canai. Raise de albero se ingropo e intorcoae, e giganti de piera, pusai dal mago del tempo, gli respira l'agro del sal, dentro è il mogio del silenzio. Un sogar de corrente va su esoso con l'estro de aiuna, resentando e brico e more, che abbraccia coeo e se conta i miei segreti dell'onda, che il farse, desfarse, de brombo e saae, imperla co faso geo sto battiso de mar. Silenzio, maestoso è notte in laguna, respiro che si genera a peo de acqua, intorcoa da una bavesea che ingrespa, in maga, in cocaindote co fa canto di sirena. Bella. Ti dà proprio bellissima. Il senso, ti sembra di vederla, di essere libero. Veramente. Sì. Purtroppo, e difatti, quando che parlo giganti de Pieras e tutte queste isole, perché se circondate da una gran muretta, muraglia, quello che vuoi dire, perché cioè se stai dopo rinforzare, e se proprio è, e se guardiane de Venezia. Ma ascolta, queste due isole che sono che non ci sono più, sì. Costanzia, come si chiama? Ma sono erano abitate? Ed era tutte, comprese Mazova, abitate dagli Altinati. Quindi, perché ne sarebbe altro che porte di Altino. Perché okay. Per esempio, ne sarebbe Burano, che diremmo in latino e chiamava Boreana, perché da Dea entrava a Bora di Trieste. Oh, guarda un po' che... Sì, da un pegatutto. No, erano tutte isolette, cioè erano più piccole prima, no? Sì. E era proprio, diremmo, succursali di Altino. Ho capito. E deriva tutta da Dea. Che ne sarebbe queste isole, cioè i nomi ne sarebbero tanto acquatici, però i venerdì da terraferma, perché Altino non faceva parte del mar di Venezia. Hai nominato una isola, cos'è? C'è il cimitero in quella isola? E adesso parliamo dell'isola. Ecco, adesso il tema è l'isola di San Michele. Ah, e ora ecco. Adesso, questa è l'introduzione dell'isola. Ecco, va bene. La presentazione qui guanti. Va bene. Adesso mi cavo. No, tienili pure che sono più eleganti. Dai. Avanti o che se vai, vado avanti. Sì, vai. Allora, adesso parlo dell'isola di San Michele, che qui è una isola che è proprio de Fassa a Murano, Burano, dopo va Torcello e va oltre tutte le altre isole che si sparse in laguna, va bene? Sì. Allora, San Michele in isola. Quella che noi altri, cioè chi che va, neanche veneziani, dai, parlo per me. Chiamiamo San Michele e si presenta come una unica realtà, cioè un bel isolotto grande. Però prima si trattava di due isole ed era divisa, ed era una vicina dell'altra, ma ed era separata da un canale, sempre dentro in laguna, tutte due vicine, però ed era distaccata. Ho capito. Ed era un canale. E a prima... In antico era chiamata Cavana de Muran, ed era quella più vicina all'isola di Muran, perché serviva da riparo a imbarcazioni che traghettava tra Venezia e Muran, perché ogni tocco di Venezia, ogni tocco di acqua aveva i suoi traghetti, le sue postazioni, si capiva. Questa sì, era sì. Venezia Muran, dopo che era un'altra Venezia, un'altra isola, Venezia un'altra roba. Sì, sì. L'altra invece isola si chiamava San Cristoforo. Il particolare di questo nome è, cioè San Cristoforo de Apase, per via, cioè è successo un fatto che ha avuto una pase, sta isola, si chiama de Apase, perché... per via di una pace che era stata guidata e conclusa tra Repubblica e Francesco Sforza, duca di Milano. Di Milano, era sì. Sempre guerre. A nome di un certo, cioè è stata vinta a nome di un certo Fra Simone, pensate che eroe sto frate, sì, altro che. Dell'ordine dei Eremitani, che a quel tempo, sotto il doge Foscari, ha avuto la fortuna di entrare nelle grazie del Senato, sto frate, ricevendo in dono quel spazio che il posto ha, e con l'aiuto anche della signoria e altre persone aiute devote, e fa fabbricare una chiesa consacrata al San Cristoforo. E qua siamo nel X secolo. Però, San Michele, quest'altra isola, diremo, era governata a quel tempo da San Romualdo, quello che fonda l'ordine dei Camaldonesi. Ah, ho capito, quelli che gare. Sì, ed erimo sotto il Mie, verso il Mie. Dopo non so dove che si andà sto San Romualdo, dove che si andà i Camaldonesi, e andemo nel Mie. In Toscana hanno un convento, un eremo. Sì, magari girà tanto. Andiamo nel Mie 212, Nel monastero, sempre desta isola, diremo, subentra dei frati dell'ordine, ecco, dell'ordine suo, cioè Ius Spario, però entra dei frati del suo ordine. Sì, dei camaldolesi, sì. Sì, creando, sti frati, un importantissimo centro di cultura che ospitava gli studiosi e famoso, se da ricordare che dopo ve ne parlerò, Fra Mauro, un frate, che qua sto frate organizza un gruppo di lavoro su studio delle carte nautiche del tempo. Pensate, nel 1212. Pensa un po'. Notizie dei viaggiatori e dei mercanti che navigavano in posti più impensai e lontani dalla terra. E da qua più frate, Fra Mauro, che crea il bellissimo mappamondo o planisfero. Ah. Non so se avete mai sentito parlare, Antonio. Sì, sì, naturalmente. Sì, ecco. Sì. Ecco, pronto, ci fermiamo un momentino. Sì, ecco. Sì. Allora adesso ci ascoltiamo il nostro Alberto Colla. Ah, brava, ecco. Grazie. Allora, Alberto Colla ci canterà Dal Lido al Canal Grande. Ecco, ti vedi. Declina il sole sul tramontar e tutta d'oro Venezia par, mentre i due mori batton le ore in ogni cuore batte l'amore. Paradiso, un'alba rosa, un tramonto che muore, c'è in ogni cosa un poema d'amore. Dal Lido al Canal Grande, una gondola passa e va, comincia un bel dolce nome felicità. Ed eccoci di nuovo in studio con la nostra ospite, al quale lasciamo la parola. Grazie. E qua, questo planisfero, siamo nel 1459. Mm-hmm. Allora, dentro sto monastero, gli studiosi, quel gruppo di studiosi, Iran curava più che i testi di teologia e la vita dei santi, Iran curava libri da viaggio, erbari, lapidari, cosmografie arabe e cinesi. Te pare? Mamma mia. Tutto quello che poteva dar una mano e aiutare i nostri cartografi, diremo quelli della Repubblica, e disegnare il mondo che non si conosceva. Ah, pensa un po'. Infatti. Brillantissimi. Insomma, ho detto, vale, che se robe che proprio vara, bisogna dirle. Quanta sì, potenza, quanta intelligenza, quanta cultura, sì, a parte, nei secoli, esatto. A parte e roberie che è sulla bocca di tutti, se andai a Costantinopoli, la roba i cavalli, la roba i leoni, insomma dai. I ladrocini ci sono sempre stati. Sì, sì, la vita si ripete. Sì, allora e ora sti operai miri. I si confrontava con le descrizioni De Marco Polo. Addirittura Marco Polo nel suo libro sa dei testi. In più, con que e anche di altri viaggiatori come un certo Odorico da Pordenone, che mi non conosco, Ricoldo da Montecroce e Jean Mandeville. Un francese. Che faceva sognare i mercanti europei parlando di strane creature. E adesso andiamo a sua fiaba, non so. Sì. Allora, queste creature si chiamava zoofite. Non importa. E sarebbe stata queste piante, mezza pianta e mezza bestia. Oddio. Ise racconti che io ritrovava anche nelle tradizioni cinesi, indiane e arabe. Un geografo senza nomi, i soliti anonimi che era gelosi di tutti, perciò non si filmava mai. Per paura del confronto? Sì, un anonimo di Almeria, intorno al XII secolo, nella sua opera Kitabi al, senti che aspetta che è difficile, Kitabi al Gagrafia, non so. Che lingua è? Tipo geografia, presumibilmente. Sì, di geografia, sì. El parla di piante straordinarie che nasce su una isola dei mari della Cina. I gai foge che sommezza a quelli un figo. E sui rami che germoglia dei bei tosi. Ma dai! Sì, da ride. Che nel mese di giugno e casca dai rami urlando quack, quack! Ti ride al tutto! Questo di quanto ne conta sta storia. Se parlava anche da Steve, da sta opera dei Kitabi, se parlava dei peice anche che faria adesso esogia dei nostri ecologisti, cioè fate quei piante se capisce. Chissà cosa chi studiava, gli faceva arrivare a Venezia da Samarcanda addirittura, del peame fin cava fuori da una pianta che cresce in quel paese dove addirittura i musulmani gli si serviva il posto di apeice e per fodrarsi i capelli. Ma pensa che roba. Ma mi guida che sia stato il tessuto fibroso di qualche pianta esotica. Sì, ma pelosa logicamente. Cioè, pelosa, sapete che lavorazione che aveva sta tessuto, sta roba. Perché noi non sappiamo in Oriente cosa ci appunto, sia. Vara una volta go, e ti dico anche, no, ti dico, chi che ha scritto sta roba da Marco Polo è il nostro storico veneziano Alvise Zorzi. Ecco, che ha scritto dei robe, insomma, su sto discorso qua. Beh, gli ho fatto vedere dei disegni che gli cava via da qualche libro, non so, di persone, di bestie particolari. Per esempio, che c'era un umano, non so se si può chiamarlo, o se è zoofite. E che aveva i piedi grandi, però gli aveva parlato di Dio. Oh signore. Sì, invece di averlo davanti, ma do slepone che ti vedessi. E che aveva anche la testa grande. Dopo che c'era dei mezze bestie, tipo il sirene non esiste. Bestie che aveva fa conto il corpo di un mezzo pesce e mezzo di un'altra bestia. Chissà che incroci che c'era che a volta fra animali, roba brutta, insomma. E forse era definì i mostri, non so cosa. Quelli che chiamavano una volta mostri, può essere che fossero questi qua. Ecco, vabbè. Allora, gli faceva arrivare dopo, avevamo detto che si serviva che peste piante, sempre dal nome strambo e difficile, e si chiamava Smarcandeus. Chissà che Smarcandeus. Chissà che lingua sarà. Se viene da Samarcanda. Sì. Anche queste era zoofite, animali e piante. Bisognava però calcolare geograficamente ogni scoperta, anche nel regno immaginario dell'antico prete Gianni, che quel prete Gianni che adesso è quello che seguiva anche a Marco Polo. Hai capito. Il prete Gianni in Caiuge era un viaggiatore. Sì. Perciò si trova anche però il palla del regno immaginario. Ah, sì, sì, sì. Di Prete Gianni. Prete Gianni. Che ha trovato il suo posto nel nostro mappamondo in Europa. Dunque, se c'era in un periodo davanti a una vera e propria svolta storica, perché quasi 30 anni dopo Colombo scopriva l'America. Ecco. Non si sa negli anni che ha funzionato questo laboratorio, non si sa se sia stato ospiti famosi, diremo, a parte i cartografi, altri tipi di ospiti. E lui dice, cartografi che lavorava per Venezia e i realizzava quei bellissime carte da navigazione, specialmente i portolani. Quelli che vivevano nei porti? No, i portolani c'era delle carte nautiche, esatto. Che serviva per studiare. C'è già stato dei libri che descrive minuziosamente proprio la perfezione e caratteristiche da una costa sotto l'aspetto idrografico e meteorologico nautico. Ah, sì, sì, cioè lui praticamente studiava appunto anche il sistema del mare e maree, sia idrografico con l'acqua e sia anche con la meteorologia del tempo. Ho capito. Era avuto che gnocchi chi c'erano oggi. Mamma mia. Ma anche se l'ho impressionato. C'erano persone veramente di una mente fervida proprio. Ecco. Dunque, e ora dice sempre che no, ma che qua come ho già detto, allora si portolani, fra che si sta pure anche ospite in questa isola, ma non aveva tanta importanza, un certo frate Cappellari che dopo si è diventato futuro Papa Gregorio. Finia e Repubblica, perché sono momenti qui secoli, Finia e Repubblica, i frati abbandonano l'isola. E si è trasferito a Roma, portando Cedrio e la preziosa coesione di tutta la sua roba, insomma, queste carte nautiche. Però, oltretutto, cosa è successo? Che la maggior parte di questa roba si è furigata a stirpe di Napoleone. Ti puoi immaginare. mesi Napoleone ha fatto man bassa. Razzia. Ecco, il calcolo è che fosse sta 180.000 volumi che si trovava nella biblioteca della Bassia. E lì ha portato via tutto. Sì, è l'unico che porta via. E 37 preziosissimi codici manoscritti dove che a più parte appunto c'è questa opera della rovaria di Napoleone. E così abbiamo perso un capello. Napoleone ha fatto le sue, sì. Ecco, allora, mi sa che portato già trova qua e gli dice che insomma che a noi altri tutta questa ibra, questa preziosità che porta via, ne piacerebbe tanto vedere e conoscere. Con l'inserimento, cioè dopo se Napoleone che ha avuto parare a tutto. Sì, ma chissà dove li ha portati. Che poi nella storia, diremo, nostra, italiana, no? Dice che a maggior parte di chi carica io e caricava, io ne abbia perso mesi. Addirittura. Persi per strada perché doveva magari attraversare qualche corso di acqua, non aveva automobili e neanche il treno. Certo, partiva con carico, robe, con carrozze. Perdere libri è un peccato mortale. Ecco, e ora a un certo punto con l'inserimento degli austriaci, perché dopo arriva anche Iori, il convento ha subito una gran trasformazione. E se sta di bio in carcere politico. E c'è se diventare il presunto per Silvio Pellico e Piero Maroncelli. Maroncelli, sì. Prima di finire a spiedi fatti sulla façade di Accesa adesso qui che è cimitero, diremo, comunale, che è una lapide che ricorda. Che ricordano Silvio Pellico e Piero Maroncelli. Sì, qui, se sta... 1008. C'è sta un secolo che dà dei segni definitivi alla sorte di questa realtà, di questa isola. Ecco. Allora, cosa è che succede? che ibrida il controllo e dei severi vincoli e dai costruzione del ponte della libertà. Praticamente una volta che ha costruito il ponte della libertà non c'era più bisogno di barche che andassero sulle isole. Il ponte della libertà ha distaccato la realtà veneziana perché si è attaccata a terraferma. Allora ha cominciato con i primi automobili e tutte quelle barche che magari prima faceva traghetto per via di questa benedetta laguna, e ha avuto insomma un ribaltamento qua. E ha fatto questo benedetto ponte che si serviva da cordone ombelicale tra Venezia e a terraferma, e siamo nel 1845. E adesso noi ci fermiamo, sì, fermiamo per ascoltare un'altra canzone. Sì. Canzone. Una gondola rossa e blu. Ah, beh. Tutto veneziano. Sì. La gondola è un'alta civetta in mezzo a un rio e abbaiava il twist. La faceva voltare con mare che arrabbia, faceva più nere che mai. Sapeva di essere bella e nero aria non gli andava su. La voleva finire sta giornata in bota e s'ha fatto ben ben pitturar. Una gondola rossa e blu non si c'era vista mai. Per Venezia nei suoi canali li ha imbarcato solo così, che se la sarebbe na. Se si spalla noi a sicura solo te e a della città, le comare le se sicure che a civetta e a finirà mal. Una gondola rossa e blu non si c'era vista mai, gli faceva tutti restar sbalordì balsa mai. Dove mai si andrà a finirsi a Venezia il gondola e vai al qui. Ed eccoci di nuovo in studio con la nostra amica Franca. E siamo ancora qua. E ora, insomma, tornando a sto benedetto ponte de libertà, ha cambiato tutta la funzione che aveva i piccoli isole spazi con la navigazione a remi. Perché dopo, sul catasto austriaco del 1844, Genese notae isole contae 62. Ah, mamma mia. 62 isole, sì, tutte attorno, proprio che c'è laguna nord, sud, ove e est. E ogni tocco di sta laguna qua ha il suo isole, non si che sia proprio messo a caso. Io sono andata a Caroman una volta. Ecco, Caroman, ma qui fa parte di tutto il litorale del Lido, Caroman. Che bene che si stava, si respirava un'aria. Cara mia, che ne sera. Però i dise, ti vedi che adesso c'ho. Non so, adesso un cuo sarà sto periodo qua, che ne conta 40, perciò 62 da 40, 60, da 62 a 40, un po' che si sparì, come che ti dico. Allora che ne se, no, non è se che se una isola, non so se l'avevo sentita, San Marco in Bocca Lama. In Bocca Lama vorrei dire l'inizio o la fine in bocca di un canale che si chiama Lama. Ah, ho capito. Che lì in fora fa conto verso dove che si faccia del Brenta, che sfocia il bere. E ha su sta isola San Marco in Bocca Lama che ha, è stata in Giottia anche qui, ad un convento, e è diventata col tempo anche a deposito di tutti i morti di peste, di appestai. Mamma mia, sì. Che isola andava sempre più giù, tanto si vede che i frati che abitava, gli aveva fermata con caene, con massi, con robe, con due barche, un'antica gaera veneziana e una barca rascona. Però quell'isola, sì, quell'isola che poi è diventata da convento, è diventata carcere, insomma, ha fatto una brutta fine. L'ho fatta tutta, da tante se diventare polveriere, tante se diventare appunto prison, tante se diventare per chiamare da tubercolosi, manicomio da uomini. Cioè che se San Servo, che era il manicomio di uomini, San Clemente, cioè San Clemente, San Servo, che era uomini e donne, dei matti, insomma, diceva. Ma adesso non ci saranno più perché hanno chiuso. No, è che sembra che attività di cultura, sì, sì, adesso sì, ha messo posto. No? Ma sono tutte abitate, tutte queste 40 isole? Beh, penso di sì, perché questo è un esempio abbandonare. E si avrà fatto roba di centri di studio come qui a San Lazzaro di Armeni, sì, che sì, governai, c'è anche piazza San Francesco del Deserto, e ne tanti. Insomma, torniamo adesso. Dunque, con l'Unione, ecco, ora torniamo in Drio all'Unione dei due isole che abbiamo parlato adesso, San Cristoforo della Pace e San Michele, due realtà diverse però unite. All'epoca, con Napoleone che ha voluto far costruire o far cimitero comunale, quel canale che divideva è stato interrato. Ah. E così ha unito e doveva diventare soltanto San Michele in isola e dentro un corpo raga di San Cristoforo e ha definito. Sto interando il canale che divideva sì, per ordine di Napoleone, si è aperto il cimitero comunale, sì, dove sì, si trova i resti importanti dei personaggi. Gesè Stanwisky, Gesè Diaghilev, Ezra Pound, poeta americano, sì. Sì, che è il poeta russo Zhov Brodsky. Brodsky, sì. Dopo che sì, Elenio Herrera. Anche lui. L'allenatore del calcio, sì, il mago. Sì. E non so sicura se che sia anche quello di Anthony Quinn. E anche Just, e dopo ne si di altri. Qua ho finito. No, non ho finito, che c'è tempo. Sì. Allora adesso andiamo a conoscere un fiantin sto planisfero di sto frate. Sì. Dunque sto frate era appunto un camaldonese, no? Autore del famoso planisfero mappamondo che si incaiuta dedicata all'Aprile sul muro. Fra Mauros sta uno dei più illustri cosmografi della metà del 400, quando ha descritto il mondo su pergamena. Il planisfero si conserva alla biblioteca marciana. Per l'esecuzione sto frate se ha servito di antiche carte nautiche tirate fuori dal libro di Marco Polo. Sto lavoro si sta portato a termine nel 1460 dai suoi coevatori perché lui è morto prima che sia stato finito. Che una volta poi morivano anche... Ecco, né sto capolavoro, né sto planisfero manca in Americhe perché ancora non era conosciuto e torniamo al discorso di prima. Però è importante invece che io abbia disegnato l'Africa, perché io specifica che era circonnavigabile, perché l'oceano indiano non è un mar serà, è scritto. Ecco. Tutto il resto c'è la forma del testo di Marco Polo, tutto quello. I gadoperai spassi acquei per di scalie, scritte in italiano su dei carteggi in pitturai. Fuori dal cerchio geografico, io ho disegnato il cielo, le stelle e la descrizione del moto crescente e calante dell'acqua per l'effetto della luna. E siamo nei miei quattro, e questo è un frate. Per effetto della luna, abbassarsi e alzarsi dell'acqua. Sì, sì, io aveva scritto su sto planisfero qualcosa che succedeva su dove qua. Quindi le maree succedono per questo? Sì, anche dal sol, perché anche il sol che su parte, di fatti si amanti, sole e luna, non ci sapevi. Dopo, perché se l'ultimo particolare proprio finito. Allora, praticamente, insomma, la sua opera è stata riconosciuta universalmente per grandezza e ricchezza dei dati. Se ricordai, qua viene una barzetta, una roba ora, se ricordai un fatto curioso menzionato nelle cronache di quello che si capita proprio nell'isola di San Michele. Io disegnavo con attenzione sopra il planisfero, no? Quando che fa visita dei patrici e un senatore. A un certo punto comincia a fare delle domande, sulla domande, e io, Mania Foggia, li guarda con aria del sospetto e coi soci birichini, capendo che i sapientoni non sapeva proprio niente. E conferma che si arrivava quando il senatore gli domanda: cosa sia fa sta carta? Sto disegno, fa sti scarabocci. Perché c'ho l'idea che disegnavo queste robe, sì, no? Sì. Scarabocci. Spiegazione calma qui del frate. E gli risponde: sti scarabocci non sei altro che i vari continenti e tutte le terre del mondo, quei montagne, i fiumi, i mari e le città. E viene interrotto con altra domanda. E sto qua per tollo de soia che dice: che grande che sei il mondo! Ma Venezia fa dove sia? Sempre più paziente il frate, segnando col deo, che mostra un piccolo puntino nero. E che fa? Qua, Venezia è questo puntino. Ciò, sti qua, senatore indispettito, perché il gesto qua mettono in giro? Indegnaghi risponde: ma se il mondo più piccolo fa in grandi Venezia. Megalomane. Considerazione, il prete dentro di lui dice: che teste fine per sti patrici. Noi ga capio fa fin dove che arrivava la grandezza di Serenissima con quel puntino nero. Ti ha capito, è antifona. Io ho detto: sapientoni, posso avere tutti che Venezia era già grande, che a volta appunto. Non che serviva che ingrandisse, appunto. Perché dove che si arriva da lei si arriva poche città. Infatti. Perché guardiamo quel puntino nero dove che si andava, perché capimmo Roma, tutte le robe della storia che ne contava Costantino il Grande, Massimiliano. La Venezia si è arrivata da sola perché si è arrivata. Esatto. Ma Venezia è una, e contro tutti, e ha una storia tutti. Gloriosa Venezia, veramente. Sì. Ecco, mi fra un attimo che ti spiego un'altra curiosità piccola, piccola. Sì, piccola, dopo piccola. Ti domando io una cosa. Sì, dopo ho finito, sta attenta. Bisogna che una roba che mi è capitata ad hoc, fatta età. Una signora mi ha fatto una domanda che mi non sapevo rispondere. Ho detto: non lo so, perché mi dice tanto che non vado in cimitero. Beh, siccome che adesso si deve restaurarlo, si deve ingrandirlo, si deve cavare via ancora acqua, insomma, mi vuole ingrandirlo, e che passare l'entrata di questo cimitero da un'altra parte, cioè da quella originale, che è una bella muretta, con il bel cancello. Beh, vi segna che c'è una strana scultura, una specie di monumento in acqua. E la figura fa conto, siccome che quando che c'è un fiato di onde di marmosso, sta roba si muove, è diremo, è a forma di una barca. E su sta barca che c'è sempre in bronzo, è un monumento in bronzo, proprio è. Dove c'è il cimitero, in laguna. Questo monumento in bronzo che c'è la figura di persone. Allora, uno è Caronte e uno è Dante Alighieri. Ah, hai capito. Ho detto, mi non so se altre città abbia questi due personaggi che indica dove che va a riposare anime. Però che se Dante Alighieri in pie alto, col braccio alto e col deo, che indica Caronte, da Venezia, passando con l'acqua, i traghetta, e va a riposarsi. Mi non so sta roba, guarda. Peccato che non ci sia anche Virgilio. No, che se sono di io se di insegnare a Caronte come che Venezia porta le sue anime a riposare. A riposare, cioè il traghetto, sì. Rappresenta il traghetto che fa, perché c'è quando è in cimitero, più che passa il traghetto. Eh beh, certo, certo. Ecco, e se ha, non so che ancoraggio che ha, come così in acqua, e se è stato di bronzo, chissà che ma pensa, Caronte e Dante. E Dante. Ecco, Dante indica Esebeo grande in pie, col braccio destro alzai, col deo indica, che indica Caronte l'entrata del cimitero. Ecco. Straordinario. No, straordinario proprio. Allora, ascolta Franca, mi piacerebbe, sì, perché sarebbe proprio in tema, siccome a me piace molto e non ce l'ho qua, tu hai Quello del vecchio, la poesia del vecchio. Contime vecchio? Contime vecchio. Perché te vuoi? Così la leggiamo in dialetto, la leggi in dialetto, no? Va bene, va bene. Allora aspetta, allora intanto ascolta. Si mette musica. Ecco, mettiamo una canzone. No. Allora, adesso ci ascoltiamo da Paola Bertoni, Venezia no. Venezia arrivarono e per ricordo comprarono una gondola col carillon, ma quel ricordo di un'altra età accompagnò la mia gioventù. Oggi purtroppo non suona più la sua magica e cara canzone. Tutto è cambiato ormai. Venezia no, non cambia mai. E se a Venezia va, come a quei tempi di Goldoni la vedrai. Cambiano le città. Venezia no, non cambierà. Guardi e milesi un dì l'hanno dipinta come tu la vedi qui. Passa la vita di tutti noi come un merletto sul pongolo. Gondola per un mare di gioia e dolore. Ed eccoci di nuovo in studio con l'ultima tranche della nostra amica Franca. Franca? Sì, sono qua. Che bella immagine, sì. quando canta che la vita passa come... come un merletto sul tombolo. Che bella immagine. Ti vedi, è poesia. Venezia, cosa che ne regala. Ma veramente è una, è un'immagine stupenda. Sì. E anche sento che bella voce. Sì. La conoscevi già? No, comunque... no, è canzone, ma è cantante sì, no. No, vabbè, allora sentiamo. No. Allora ci ascoltiamo la poesia. Contime vecchio. E ti, vecchio, contime a tua storia, contime della tua vita col mar, quel mar che te ha fatto quasi da pare. Contime dei suoi supioni, dei suoi canti, l'incrosarsi delle onde alte e arche, sgionfe, che co fa sirena e si destracca sotto il sol. Contime, vecchio, dei notoae a ciel seren, cuore e anima ingrumai nell'eco dell'infenio, in muti pensieri d'estasi, in tossegai d'acqua e vento. Contime, vecchio, dell'alba nuova, del primo sol, dei primi sdansi saai, perle tacai sue pei brustoada, e del zogar di cocai innamorai, sperdese nel geo del garbin. Ma de notte, col silenzio fa da sentinea, contime, contime vecchio, dove va a negarsi il mar? Forse a furegarsi dentro le nuvole singane, fra le aie bianche del cielo, o dentro il tuo cuore, nella tua miseria, nel tuo respiro, fatto di acqua salsa. Ah, molto bella questa qui. Questa qui è una delle tue, che sono sempre belle, sono sempre molto belle. Grazie, ma anche questa qui ha delle immagini veramente... Odio l'acqua, odio il mare, però che sono dentro lo stesso. Ma perché odi? Perché odi l'acqua? Perché non sono buona a nuare, neanche a quarto ora. E vabbè, ma questo non vuol dire niente. Ho capito, ma siccome che mi queste robe qua, ti vedi fatta età, e conosco perché mio papà forse andava a pescare, no, in marsa, andava in laguna, e sono andata a cammini qualche volta, via Colciaro, a Passarini, qua a Fossina, c'erano putea a fare compagnia, e ora ti vedi sono fiantina, bastardata. Ma in sostanza... Ti sei, per scrivere questa poesia, ti sei ispirata a un gondoliere o a un pescatore? No, a un pescatore. A un pescatore? Pescatore, no, il gondoliere non va a pescare, il gondoliere va a pescare morose. No, per la pelle bruciata. Ah, no. Ma io di quando chi va a pescare, poi da su un cavento, sotto il tol... Perché non si mette il pescatore che va qua a Cana, qua a Barchi, sta via anche settimane, no? Sì, quindi arriva a casa... Arriva a casa chi si brusai... Io va via in Sicilia, io va via qua a Lampara, e gli altri va via col ciaro, col carburante, che a volte mi ricordo del ciaro, una specie di Lampara. Comunque è bellissima, perché sì, proprio ti dà la netta sensazione, proprio l'impressione di questi vecchi, specialmente così bruciati dal sole. Sì, a bruciare dal sole, anche bruciare dal sole, rosti e bruciare dal sole, già sai dal freddo, perché anche col freddo, chi è manso e bugansi, dopo tutte le mani segnare come i gransi, da tanto che sta moce in acqua. Ma anche adesso, che sia così, no, forse avranno migliorato adesso le cose? No, non che si più sta a pesca quasi, un po' di modernità che è difficile. Se vai, va così, per hobby, che sei di posti dove che magari va a notte, o va con la rete, va con la voiga, che sei sempre, che magari è trovi, va con la voiga, e c'è a fior d'acqua. Ma tu hai scritto un'altra poesia che parla di Venezia, di un mendicante, mi pare. Sì, ho detto vagabondo, ma ecco, non di Venezia. No, di Venezia, ma mi pareva che tu avessi scritto ancora un'altra poesia che parlava di Venezia, che aveva delle bellissime immagini. Sì, Silenzio in Laguna, vabbè dai. No, forse è il mio sandalo. Non lo so. No, che no. Parlo di appunto, vabbè insomma, del Ciopon, vabbè. Comunque, dai, sai che è vero, Antonio, che gli abbiamo promesso che una volta parleremo anche delle sue poesie? Decisamente. Decisamente. Va bene. Quindi, intanto... Fate vobis. Intanto noi ti ringraziamo. Volentieri, ringraziamo. Grazie a voi altri. Ringraziamo tanto, hai fatto una bellissima... Ho fatto un fiato di confusione qui, nomi, perché mi parlo il dialetto veneziano. Ah, non c'è problemi, se capisce comunque. Né l'inglese, né il francese, né il veneziano va benissimo. Comunque è sempre piacevole averti in trasmissione. Va bene, vi ringrazio, sei troppo buoni con me. Perché avrei pazienza di ascoltare questa ciacoluna. Grazie a voi altri. Grazie. Ed eccoci qui, naturalmente per completare così questa puntata su Venezia, volevo così leggere un piccolo brano, un piccolo frammento dal libro di Gianfranco Siega, Par modo de dire, storie, leggende, aneddoti e curiosità intorno ai modi di dire del nostro dialetto, editoria universitaria Venezia. Qui si tratta di così piacevolissimi racconti, mini racconti che possono così riportare alla memoria anche delle situazioni o delle abitudini, per esempio questo di far cassa peota, e cioè la cassa comune che era diciamo ancora oggi in uso o comunque fino a poco tempo fa, diciamo, ecco. Far cassa peota, la cassa peota funziona così: un gruppo di amici possibilmente fidati decidono di fissare una quota settimanale di versamento al cassiere eletto in fiducia in un giorno stabilito di riunione, generalmente il sabato. I soldi così raccolti vengono impiegati in prestiti obbligatori da farsi ai soci stessi, i quali si impegnano a restituirli settimanalmente con un interesse del 10%, capitale ed interessi, accuratamente contabilizzati, vengono restituiti ai singoli soci alla fine della gestione annuale durante la cena di cassa. Da che cosa deriva tale usanza? Bene, si deve sapere che nei viaggi di commercio per mare i rematori volontari, e non ovviamente i galeotti forzati o gli schiavi a remo, avevano per consuetudine la possibilità di fare un piccolo commercio, quando potevano portare sotto il banco di voga. I soldi necessari all'acquisto della merce venivano per sicurezza consegnati al capitano nocchiero, al pilota, il quale provvedeva a restituirli all'occasione o eventualmente a prestarli, con il relativo interesse, ai membri dell'equipaggio che ne restassero sprovvisti e a spartire alla fine del viaggio il capitale e gli eventuali utili, cioè gli interessi raccolti. Da ciò cassa peota e quindi cassa del pilota. Una diversa interpretazione per le peote, che erano barche fluviali a 6 o 8 remi che nel secolo XVII accompagnavano riccamente addobbate i cortei in Canal Grande. Può essere che queste associazioni di vogatori terrafermieri mettessero insieme le quote settimanali degli iscritti in funzione delle spese da sostenersi per il corteo stesso, con le stesse modalità, prestiti e condivisione degli interessi dei rematori di galere. E da ciò cassa peota. Un diverso etimo può essere considerato il verbo pear, spennare, riferentesi all'interesse del prestito obbligatorio, ma non lo ritengo accettabile. Ecco, anche nella nostra zona per molti anni si è avuta questa abitudine, diciamo, della cassa peota. Ma mi pare che sia un po' andata scemando, anche perché ci sono stati, mi pare, dei casi di appropriazione, almeno sembra così, indebita, e quindi, e poi chiaramente questo è andato scemando anche per il fatto che l'individualismo ha preso il sopravvento sulla comunità. Oggi diciamo che c'è molto meno, come dire, tendenza ad essere comunità e non più piuttosto a essere una società, cioè certo, dove ci sono gli interessi che prevalgono. Piuttosto, io ripeto sempre la storia di Ferdinand Tönnies, comunità e società. La comunità era quella, come dire, arcaica, che però era fondata su una reciproca, come dire, convenienza allo stare insieme, che superava anche le differenze, eccetera. La società è quella che ti dice: io sto assieme finché ne ho qualche interesse. Sì. E queste cose naturalmente alla lunga possono anche, come dire, spiegare la tendenza dei nostri tempi, che è sempre quella. Forse bisognerebbe pensare a ritornare ad essere comunità, e lo dicono anche, naturalmente non lo dico io, ma lo dicono voci molto più autorevoli. Ma chissà che fra ancora 50 anni pian piano non si torni. Ma ti dirò, è possibile che ci rendiamo conto che non solo sarebbe utile, ma è proprio addirittura conveniente e necessario farlo. Perché se si ritorna all'epoca, diciamo, della civiltà contadina, per esempio, sì, si capisce che è necessario mettere tutti quanti assieme, ed è necessario, nonostante le differenze, nonostante tutte le problematiche, diciamo, lavorare come un sol uomo per ricercare quei benefici che sono comuni, diciamo, che vogliono essere assolutamente. Comunque adesso siamo arrivati proprio a terra. Siamo arrivati a un punto dove presumo io potremmo soltanto risalire, ma non è detto che non cominciamo anche a scavare, non si sa mai, non vorremmo essere così cattivi. Speriamo di risalire, diciamo. Cioè, non fra 50 anni. Ma diciamo che non poniamo limite alla provvidenza, anche lasciare che sia una testimonianza dove così abbiamo espresso in modo abbastanza, come si, umile la nostra proposta, eccetera. E non ci resta altro che salutare tutti, naturalmente, con queste misere, con queste povere considerazioni. Non bisognerebbe farle spesso queste considerazioni. Ringraziamo le ascoltatrici e gli ascoltatori per la loro ancora pazienza, la Franca naturalmente, ecco, per la sua sapidità, al solito, naturalmente molto molto in gamba. E addio piacendo. Alla prossima volta. Ciao Antonio. E ciao Gesi e ciao a tutti quanti. E come di solito vi dico sempre ciao ciao.